a tutti e a tutte, le 14, due minuti primi. Visionari, il consueto appuntamento con il cinema del giovedì dalle 14 alle 15, oggi 19 marzo del 2009, le 14 e due minuti primi. Per tutte le informazioni potete consultare il sito sia www.ondarossa.info, dove troverete gli ospiti di questa puntata, ma non sono segnati tutti perché si sono aggiunti strada facendo, e poi le uscite in sala per questo venerdì 20 marzo, e poi suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e nel Lazio, e poi i link per dare un'occhiata alle nostre recensioni, i nostri suggerimenti anche per quanto riguarda i film in programmazione per tutta la settimana sul piccolo schermo, sia in televisione. Allora, subito con i nostri ospiti, quindi mantenete un po' di pazienza. Umberto Spinazzola, ci sei? Eccoci qui. Sì, ci sono, eccomi, ciao a tutti. Come va? Bene, grazie. Allora, con te per parlare dell'ultimo Crodino in uscita domani nelle sale. Allora, raccontaci un po', visto che tra l'altro neanche ho potuto vederlo in anteprima, per cui sono curioso. Allora, intanto una coppia possiamo dire nuova per il cinema italiano, che è quella di Enzino Iacchetti in veste di attore drammatico, ma si ride anche, e Ricky Tognazzi, che insomma tutti conosciamo, grandissimo attore oltre che regista. Sì. La storia è una storia tragicomica, che due insospettabili, due incensurati, due al di sopra di ogni sospetto, che per sbarcare il lunario, per uscire dai debiti, per cambiare vita in una crisi economica profonda che attraversano, decidono di fare un rapimento, ma siccome sono due brave persone non se la sentono di rapire un vivo e dicono rapiamo un morto, e scelgono Cuccia, Enrico Cuccia, uno dei più potenti personaggi dell'economia mondiale, e così si inventano questo rapimento, solo che non, essendo due sprovveduti, ne combinano di tutti i colori. Senti, come nasce l'idea del film? Allora, il soggetto è di Pietro Galeotti. Sì. Diciamo che sia Pietro, io e anche altri avevamo messo subito gli occhi su questa storia, perché quando leggevamo gli articoli, quando io leggevo tutto quello che avevano combinato sti due, tutte le ingenuità che avevano commesso nel furto di questa bara, avevo subito sentito l'odore di quella commedia all'italiana che fu di ieri. Sì. C'è proprio quel sapore lì, e non è stato facile metterla in piedi. Poi grazie a Mauro Berardi, che è il produttore, ce l'abbiamo fatta, perché oggi vogliono tutti la commedia giovanilistica, gli amori, quanto mi ami, io ti amo, l'SMS, i lucchetti, i video, l'MMS, il lucchetto, il video, il ponte Milvio. Insomma, se fai un film un po' più rigoroso, sì, non è facile metterlo. Anche perché è stato un modo come un altro per parlare di una crisi che attraversa un po' il paese, no? Sì, e c'era anche questo lato di attualità, sì, in pieno proprio, no? Perché qui, se andiamo avanti come sta andando, mi sa che poi ci ritroviamo tutti a dover fare qualche pensiero per sbarcare il lunario, no? E quindi c'è anche questa grande finanza, questa finanza di ieri rappresentata da Cuccia, che per quanto potente, oscuro, ma forse paradossalmente manteneva ancora una solidità nel sistema. Oggi invece i furbetti del quartierino insegnano con grandi coperture politiche, quattro fessi possono formare una banca e mandare in rovina 5.000 risparmiatori, 10.000 poveri risparmiatori. Insomma, c'è veramente un po' un sistema bancario traballante, no? Sì, quindi. Il colmo è quello, che poi alla fine uno come Cuccia, che governava tante banche, più di 20, riusciva a mantenere un minimo di solidità. Io non sono un economista e faccio un discorso più come dire sociologico che non, sì, che non per ben sì, lungi sì, da me dare valutazioni sul però ecco, cioè, oggi viviamo in questa un è l'impressione che ha ricavato, insomma. Sì, che chiunque, insomma, le banche hanno fatto delle cose spaventose. Sì. Senti Umberto, volevo chiederti il tuo percorso cinematografico precedente. Avevo fatto un film più sì, di 10 anni fa, Couscous si intitolava, un film che era proprio un omaggio alla musica, una sorta di road movie musicale, solo che in Italia non c'è tanto la tradizione, insomma, del film musicale, per cui non è che andò male, arrivò finalista ai Globi, vinse dei premi, fu distribuito, per carità, però era talmente un inno alla musica e alla libertà di tutti che hanno i musicisti, che forse non è stato come dire, in Inghilterra poteva essere più capito. Comunque il film è piaciuto molto anche all'epoca, conservo ancora delle lettere importantissime, tra cui una di Peter Gabriel, che fece i complimenti. E poi ho fatto pubblicità e televisione, adesso questa storia mi ha intrigato tanto e siccome quel film lì era piaciuto a molte persone, ho poi avuto modo di mettere in piedi questo. Nel film si parla anche, comunque c'è di mezzo la Val di Susa. E sì, la persona che ci ha messo in contatto mi ha detto anche di, visto che lui l'ha visto il film, io no, di chiederti di quelle bandiere Notav che compaiono. Sì. Guarda, la Val di Susa è una valle tormentata da mille problemi, per essere brevi, perché il discorso è molto profondo ed è difficile da riassumere. Però è una valle che è stata un po' snaturata e deturpata da quella che era la sua vocazione originale, cioè allevamenti, pastorizia, coltivazioni. Lì sono arrivati insediamenti industriali, è arrivato il traforo del Frejus, centinaia di tir che transitano al giorno in mezzo alla valle con inquinamenti, adesso l'alta velocità, il problema della diossina. Insomma, è una valle bella tosta, cioè con delle con tanti piccoli terremoti all'interno, però è una valle è una provincia che, quando è stato il momento di scendere in piazza e farsi valere con tutto il passato che hanno di partigiani, insomma, sul problema della TAV o no TAV, sono stati capaci di farsi sentire alla grande, forza, una valle che si è. Allora mi piace che ci sia un film che racconta quella valle. Bene. Senti Umberto, domani nelle sale quante copie sono? 100 copie, insomma. 100 copie. Anche un buon numero, insomma. Un buon numero, speriamo. Il film, insomma, è divertente, sempre coi toni della commedia amara, però ci sono anche dei momenti dove si ride, perché questi due, per rubare sta barra, ne combinano tutti i colori, non voglio anticipare nulla, ma insomma arrivarono persino a chiedere il riscatto alla persona sbagliata, quindi ci sono proprio degli aspetti che sono i soliti gnomi. Bene, allora in bocca al lupo e spero grazie di risentirti presto. Anch'io. Un abbraccio, speriamo vada bene, grazie. Ciao. Voi. Grazie. Era Umberto Spinazzola, regista dell'Ultimo Crodino, da domani nelle sale. Andiamo avanti. ritorno, libero De Rienzo, buon pomeriggio. Ciao, vabbè, mi sembra giusto chiamarmi Picchio, tanto lo sanno tutti che mi chiamo così. Va bene, allora ti chiamerò Picchio. Buongiorno a tutti e tutte. Allora, con te che sei il protagonista del film Fort Apache, che domani, se non sbaglio, uscirà in Campania e la settimana prossima in tutta Italia. Esatto, sì. Tra l'altro mi prendi sul treno di ritorno da Napoli nel momento in cui con Marco Risi, in questo preciso momento, stiamo facendo un brindisi al film. Per cui poi te lo passo pure. Va bene, allora faremo anche due chiacchiere con lui. Perfetto. Allora, noi... è da sangue che non ci sentiamo, era un po' che mancavi da questi microfoni. Tra l'altro io non ti vedo da quel periodo, per cui ti ho pure faticato a riconoscerti subito. Beh, questo depone a mio favore, però abbiamo fatto un buon lavoro. Sei anche dimagrito, se non sbaglio. Sì, ho perso miracolosamente anche degli anni, ho rimorchiato tantissimo in quel periodo. Adesso è tutto finito, sono tornato il vecchio devastato che ero. Allora, raccontaci un po', per chi ci ascolta, la storia di questa storia di giornalismo coraggioso, importante. Noi tutti conosciamo la storia di Pecorelli anche per le trasposizioni cinematografiche. Non è stato però l'unico ad essere stato ucciso per il suo lavoro. Giancarlo Siani era un ragazzo di 26 anni che nell'85 lavorava già da 4 anni per Il Mattino. Tra l'altro lui era un ragazzo di buona famiglia, di un buon quartiere di Napoli, che invece per scelta faceva il corrispondente da Torre Annunziata, che è uno dei luoghi più feroci della Campania. Tutt'oggi il centro di smistamento di quasi tutta la droga che passa in Europa, quindi immaginatevi che interessi e che violenza. Giancarlo era riuscito a capire un meccanismo interno a dei tradimenti interni tra clan di Camorra all'interno della guerra tra la nuova Camorra organizzata di Cutolo e la famiglia, le famiglie riunite di Bardellino, Alfieri, vabbè, senza entrare troppo nei dettagli. Comunque era riuscito a smascherare un tradimento interno, un'infamia, come la chiamano loro, in quanto praticamente degli alleati del clan di Torre Annunziata avevano venduto il capo del clan alla polizia in cambio di una tregua. Questo proprio evidentemente non lo doveva fare. Certo, ricordiamo che Giancarlo è stato l'unico giornalista ucciso dalla Camorra, che è più attenta della mafia alle pubbliche relazioni, come dire, a non mostrare una faccia troppo feroce. Per cui la cosa che spesso fanno loro quando uccidono qualcuno che non c'entra niente è di provare a infangarne la memoria dicendo che invece era colluso. Dopodomani a Napoli si svolge una marcia organizzata dall'Associazione Libera di Don Ciotti, sì, che si occupa delle confische dei beni dei mafiosi, sì, per, sì, di restituirle all'agricoltura, insomma alla gente. Questa marcia prende muove i primi passi dal ricordo di un altro uomo coraggioso che faceva bene il proprio lavoro in un territorio difficile, che era Don Peppino Diana. Io sono laico cristiano, ma questo non vuol dire niente, insomma, quando una persona scende in campo in prima persona per la gente ne va riconosciuto il valore. Sì. E lui aveva avuto l'ardire di nominare da dentro una chiesa per la prima volta la parola Camorra, un romero delle parti nostre. Fu ucciso e gli spararono in faccia in chiesa. E il giorno dopo provarono a mettere in giro delle voci che questo bravissimo sacerdote aveva l'amante, aveva fatto delle cose sporche, per cui era giustificato che fosse morto. Queste sono proprio delle cose di marketing che fanno questi signori, e che però, insomma, poi la verità esce fuori. E la verità è che si muore per fare bene il proprio lavoro, e che non si è neanche tanto ricordato. Io sono il primo ad ammetterlo, ho 30 anni, cioè avevo meno di 10 anni quando Giancarlo è stato ucciso, l'avevo a malapena sentito nominare. Invece insomma, è un personaggio meraviglioso. Sì. Picchio, intanto complimenti, ci sei? Sempre. Da parte mia, ma anche di Valerio San Marco, che è sempre un visionario, che era con me in sala a vedere la proiezione. E poi ti volevo chiedere come ti sei avvicinato al progetto e come, insomma, ti ha entusiasmato al punto da accettare di lavorarci. Bravo, hai detto bene, perché tu lo sai, perché noi ci conosciamo, che io avevo deciso di non farlo più l'attore, sì, perché un po' per perseguire la strada della regia, un po' perché sento una responsabilità reale nel fare questo mestiere, quindi un attore non sceglie che storie raccontare, un regista sì. E perché come interprete, come attore, sempre di più mi capitavano delle proposte di film inutili che lasciano il tempo che trovano e che servono a rincoglionire la gente, a fargli chiedere se va tutto bene e che comunque si tira avanti. Sono stronzate, non è vero, non va tutto bene per niente, ed è necessario che chi come noi si occupa di informazione, di comunicazione, di arte o radio o cinema o quello che sia, si renda conto che abbiamo il dovere di muovere le coscienze. Per cui quando mi è stata possibilità per la prima volta in vita mia di fare l'attore in un film in cui potevo veramente sposare tutto il progetto politicamente, ideologicamente, umanamente, e quindi fare qualcosa, insomma, io mi sento veramente che in qualche modo noi abbiamo fatto rivivere questo ragazzo ucciso per aver fatto bene il proprio lavoro, perché ora se ne parla, perché ieri siamo stati ad una cosa molto toccante al carcere minorile di Nisida, sì, che è un posto super contraddittorio, perché è una cornice incantata, un luogo meraviglioso, sembrano i Caraibi, la Grecia, sì. Ed è un luogo di dolore infinito. La galera è la cosa, lo sappiamo tutti, più schifosa e brutta che possa esistere nel mondo. Ieri eravamo lì perché sempre questo bravo sacerdote, Don Ciotti, ha organizzato un incontro tra questi ragazzi e i parenti delle vittime di crimini di mafia, di Camorra. Sì. Il che vuol dire che verosimilmente lì erano affiancati mogli, mariti, fratelli, figli, sorelle di persone uccise, brutalizzate, erano vicine forse ai loro assassini. Mm-hmm. E non c'era mai livore, c'era tanto dolore negli occhi di tutti quanti. E là ti rendi conto che alla fine sono vittime tutti, chi è condannato a morte e chi è condannato ad ammazzare, nel senso che poi un ragazzino di 14 anni con una pistola che pesa quanto umano, c'è qualcosa che non va, insomma, sì, non è solo crimine, è un crimine di tutta la società, insomma, no? Sì, sì. Senti Picchio, a questo punto, prima di salutarci, facciamo anche un saluto a Marco, sì, dai. Sì, che ormai è diventato il mio fidanzato e il mio papà. Pronto? Marco, ciao. Ciao. Ciao, come va? Bene, bene, bene, siamo in treno, vorrei che cadesse la linea perché qui finora ci è andata bene. È andata bene, sono sì, contento. Allora, complimenti anche a te per questa scelta, questo film, e ti chiedo come è nato il progetto. Il progetto, guarda, parte da tanti anni fa, circa 7 anni fa, diciamo che l'idea di partenza veniva da un libro di Antonio Franchini che si chiamava L'Abusivo, che aveva a che fare naturalmente con Giancarlo Siani, ma era una cosa un po' diversa perché si occupava soprattutto di intervistare persone, personaggi che avevano conosciuto Giancarlo, insomma mancava il passo che necessita una sceneggiatura, una storia per un film. Però su quell'idea ci siamo messi al lavoro con Jim Carrington e Andrea Purgatori, e abbiamo tirato, con Andrea Purgatori avevo già fatto Il Muro di Gomma, per dirne una, e abbiamo tirato una sceneggiatura che non era male. Mm-hmm. Ma dovevamo partire 4 anni fa, poi vari registi l'hanno impedito, ma quest'anno c'è anche un produttore serio come Angelo Barbagallo, Caterina D'Amico, che si è innamorato del progetto, siamo finalmente riusciti a farlo. Bene. La proiezione a Roma, l'anteprima, sarà accompagnata da applausi, e so che a Napoli è stato accolto bene. È raro, perché l'anteprima era l'anteprima per i critici di solito per la stampa, esatto si addormentano quando vedono capitolo, sghignazzano, fanno battute, cose, invece applaudano, è una cosa abbastanza rara. Infatti sì. Beh, a Napoli è stato un trionfo, perché questa è la città di Giancarlo. Quindi soddisfatto comunque. Ti sento che vai e vieni. Purtroppo, vedi, stiamo entrando in quella zona sombra, qui siamo in zona Camorra, siamo. No, ma veramente emozionante, perché c'era anche una ex fidanzata di Giancarlo Siani, Chiara Grattoni, che è una persona meravigliosa, e lei era veramente molto emozionata, perché ha detto è come se io avessi rivisto Giancarlo. Mm-hmm. È stata un'emozione, e anche il fratello Paolo, insomma. Poi c'erano tante persone, diciamo che le autorità erano le meno interessanti in quella serata. Mm-hmm. Marco, allora in bocca al lupo per questa uscita e spero di risentirti presto. Crepi il lupo, grazie mille, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao. E questo era Marco Risi. Prima di lui abbiamo sentito Libero De Rienzo, il protagonista del suo film Fortapace, in uscita in Campania domani e poi il prossimo venerdì 27, se non sbaglio, sì, in uscita in tutta Italia. Andiamo avanti, questo è Visionari, come ogni giovedì dalle 14 alle 15 per parlare di cinema sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Eccoci qui. Buon pomeriggio a tutti voi. Come stai? Bene, grazie. Allora, domani esce il tuo film Aria. Eh sì, un film piuttosto indipendente. Assolutamente indipendente. È stato prodotto dalla Befa Produzioni e da Trulli Film ed è una autoproduzione, nel senso che non ha ricevuto nessun tipo di finanziamento né privato né pubblico. Oh, un tema piuttosto interessante, quello del vivere in un corpo che non si vuole, in un sesso che non si vuole. Sì, un tema che è anche una metafora di tutte quelle persone, purtroppo al giorno d'oggi sono sempre di più, che vivono in una condizione che non gli appartiene, sono costretti a vivere in una condizione che non gli appartiene o per coercizione o per una scelta propria che può essere dettata da mille fattori, la vigliaccheria piuttosto che l'incapacità di ribellarsi a se stessi e agli altri. Quasi nessuno, una piccola minoranza riesce a fare l'operazione di cambio di sesso, molti vivono invece questa condizione per tutta la vita con grande sofferenza. Certo, purtroppo sì, per voler appunto parlare del tema della sessualità come metafora, che è anche un po' quella del film, pochi riescono a fare un cambio di identità anche diversa, cioè pochi riescono a essere veramente se stessi dal punto di vista dell'identità sessuale, intellettuale, culturale e dei propri veri interessi. Purtroppo lo sappiamo tutti, la realtà e la sincerità è la condizione più difficile dell'uomo, ma anche quella a cui tutti dovrebbero aspirare. Mm-hmm. Un grosso vantaggio per il film è stata, a mio avviso, l'interpretazione, la presenza di Roberto Erlizka. Più che un vantaggio, io lo definirei addirittura la base del film, perché senza Roberto Erlizka tutto questo non sarebbe stato possibile. Ma perché? Perché il personaggio è stato davvero assieme, quindi un lavoro di cooperazione, come succede nei veri lavori, è stato modellato su Roberto Erlizka, sulla sua maschera, sulla sua bravura e sulla sua capacità di esprimere senza strafare, con un solo sguardo, con la sola presenza. Sì, sì. Devo dire che ha veramente aderito al personaggio, almeno questa è stata l'impressione da spettatore. Sì. Ha aderito con un grande coraggio, perché indubbiamente con la sua età, la sua carriera e la sua bravura, crearsi addosso un personaggio così scomodo, se vogliamo, è un segno di coraggio e di grande professionalità. Senti, questa storia nasce dal, come ho letto nella scheda di presentazione del film, dalla tua diretta conoscenza di persone che hanno vissuto questo dramma realmente. Sì, ancor prima della mia, addirittura dalla conoscenza della produttrice, perché bisogna dire che il soggetto è di Monica Iezzi, è lei che mi ha contattato per la sceneggiatura, al che io ho fatto mente locale e mi sono ritrovato a analizzare tutte quelle vite, facendo anche questo lavoro da un po', il teatro, come tutte le arti, spesso è popolato di persone che hanno una sensibilità tale che li porta magari ad avere dei disagi sia sessuali sia di altro tipo. Sì. Di tutte quelle vite che hanno vissuto questa condizione, e in particolare di un transessuale che conoscevo. E quindi grazie anche a loro sono riuscito, se ci sono riuscito, spero al pubblico giudicarlo, a scrivere e a raccontare questa storia. Oh, da lì è cominciata questa avventura del film, credo non facile, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di fondi, che mi dicevi non sono arrivati da nessuna istituzione, quindi è stato un film, una scelta di indipendenza fin dall'inizio, insomma. Sì, è una scelta difficile. È stato complicato? Molto, molto. Io devo dirti la verità. L'ho vissuta di riflesso, in quanto essendo stato contattato e non avendo proposto, l'ho vissuta nel momento in cui il progetto si è attivato, però sicuramente la produttrice l'ha sentita sulla sua pelle in maniera profondissima, e questo ha creato moltissimi problemi, come sempre quando purtroppo non c'è dietro qualcuno di forte che ti supporta. Comunque il film è andato in alcuni festival, finora è stato ben accettato da chi l'ha visto, e mi auguro che sarà così anche in futuro. Bene. Oh, in quante copie uscirà domani? Guarda, il numero preciso di copie non lo so, non è dato saperlo, in quanto la produttrice su queste cose è molto riservata, però so che uscirà in varie parti d'Italia, non sarà un'uscita, diciamo, locale, e questa è già una grande conquista. Ok. Senti, e per chi volesse saperne di più, c'è un sito dedicato al film? Sì, c'è un sito che è www.ariailfilm.it. Lì ci sono un po' di notizie ulteriori, e poi chi volesse vedere il trailer lo può vedere anche su Coming Soon, YouTube e sugli altri siti. Comunque credo sia anche sul sito del film. Valerio, in bocca al lupo, un abbraccio, spero a presto. Lo spero anch'io, grazie a tutti gli ascoltatori e grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Bene, si trattava di Valerio D'Annunzio, regista di Aria, da domani nelle sale. Radio Onda Rossa 87.900, la modulazione di frequenza, per inviarci mail visionari@ondarossa.it, il fax 0644636. E invece la scaletta potete consultarla sul sito www.ondarossa.info. Proseguiamo. Festival, Rome Independent Film Festival, con il direttore Fabrizio Ferrari. Buon pomeriggio. Ciao, buonasera a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Allora, Roma, 19-27 marzo, raccontaci un po'. Allora, stasera abbiamo questa, diciamo, prima solo con i registi e gli attori del festival, ci sono tantissimi ospiti anche stranieri, e domani quindi partiamo al cinema Aquila dalle 4 di pomeriggio con una serie di cortometraggi italiani, e poi, ecco, alle 8 ci sarà questo film d'apertura che è Sing for Darfur, un film olandese girato tutto a Barcellona in bianco e nero, molto particolare. Uh-huh. E poi, ecco, tantissimi documentari e lungometraggi italiani. Diciamo che quest'anno, ecco, il focus è un po' sulle opere prime italiane. Ogni sera infatti avremo un film, sì, in concorso, per poi chiudere, ecco, il 26 sempre al cinema Aquila al Pigneto con Valzer di Salvatore Maira, dove protagonista Valeria Solarino. Bene. Allora, rispetto per esempio all'ultima edizione, ci sono sostanziali differenze o siete in continuità con la passata? Beh, no, ormai, ecco, il festival è dedicato più che altro alle opere prime, e rispetto alle scorse edizioni, ecco, forse dalla parte dei documentari notiamo una certa attenzione per i documentari con tematica ambientale, sull'ecologia, su alcuni insomma, sia disastri sia ecologici sia insomma particolare attenzione ai diritti umani. Senti, visionando il materiale, che impressione ti sei fatto sulla vitalità del cinema indipendente italiano? No, rispetto agli scorsi anni mi sembra che ci sia un rilancio delle nuove proposte, un molto più fermento di idee e insomma, di produzioni. Infatti quest'anno, ecco, abbiamo 30 cortometraggi in concorso italiani, 3 documentari e 5 lungometraggi. Mm-hmm. Quindi sono arrivati sì moltissimi film italiani rispetto agli scorsi anni, e l'auspicio è quello di vederli in sala alla fine del festival. Alcuni già usciranno già da marzo ad aprile, sempre in una maniera molto indipendente, insomma, difficile trovare il supporto delle grosse distribuzioni, però con tanto coraggio e determinazione riusciranno loro anche a trovare un'uscita in sala, mm-hmm. Ne sono sicuro. Bene, hai toccato proprio un problema cruciale, che è quello della distribuzione, soprattutto per il cinema indipendente. Hai potuto constatare formule che sono state inventate proprio dai registi, dai produttori, eccetera, per portare in sala queste opere? Beh, il lavoro che fanno i registi e i produttori è quello di contattare singolarmente quelle poche sale, mm-hmm. che possono ospitare e quindi dare visibilità a questi film, e poi, ecco, la cosa importante è il pubblico, l'audience, cioè, quindi io qui faccio un appello proprio al vostro pubblico, ai romani, di sostenere questo cinema, perché sono film non di nicchia, sono film che meritano di essere visti, che purtroppo non escono in sala perché le grosse distribuzioni preferiscono dare visibilità a quei film dove possono avere un incasso sicuro, un guadagno sicuro e certo, nessuno ormai rischia più, sì. Però ecco, questi sono film che meritano di essere visti, e quindi solo grazie al biglietto che viene acquistato da noi riescono poi a sopravvivere e a poter produrre opere, insomma, negli anni futuri, no? Quindi è questo, sì, l'appello, sì, che faccio, cioè sosteniamo il cinema nostrano, il cinema indipendente, e i film sono belli, sono da vedere. Poi ci sono anche commedie, non sono film con tematiche, insomma, non sono film pesanti, ci sono anche film di qualità, insomma, però troviamo anche commedie, troviamo, sì, sì, dramma, sì, di tutti i generi, insomma. Fabrizio, è prevista anche la presenza degli autori, quindi immagino che le proiezioni saranno accompagnate da proficui e interessanti incontri. Sì, no, il festival proprio quest'anno respiriamo proprio un'atmosfera proprio da festivaliera al 100%. Oltre ai registi italiani abbiamo tantissimi registi stranieri che verranno qui a Roma a presentare i loro film. Al termine di ogni proiezione c'è la possibilità di... ci saranno domande e risposte con i registi, e poi anche tantissima musica, aperitivi cinematografici, abbiamo allestito nel foyer del cinema. Insomma, c'è un allestimento con prodotti succulenti e anche tanta musica. Come dicevo, abbiamo diversi gruppi che verranno a suonare proprio al cinema. Bene, per saperne di più ci puoi lasciare qualche riferimento internet? Certo, sul nostro sito riff.it, il sito del festival, c'è tutto il programma con le schede di tutti i film, foto, sinossi in italiano, in inglese, biografie dei registi, e quindi ci si può prenotare o se no direttamente al cinema a Via L'Aquila, al cinema, nuovo cinema Aquila, al Pigneto. Vi aspettiamo numerosi, grazie, insomma, per il vostro interesse. Allora, un abbraccio e in bocca al lupo, e a presto. Crepi, grazie, ciao. Ciao Fabrizio. Fabrizio Ferrari, direttore del Roma Independent Film Festival dal 19 al 27 marzo. Milano del Festival del 19ª edizione del cinema africano d'Asia e America Latina dal 23 al 29 marzo con Alessandra Speciale che è la co-direttrice. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come stai? Abbastanza bene, ormai il più è fatto in termini di programmazione e tutto, stiamo aspettando lunedì per la grande apertura. Bene, bene, è sempre un piacere, un appuntamento annuale con te, sempre da queste frequenze per parlare di questo festival. Allora, la prima domanda che mi viene in mente è, tre continenti, Asia, Africa, America Latina, che fermento c'è, che vivacità c'è, che produzione c'è, almeno dal materiale che hai potuto vedere? Ma guarda, dal continente asiatico e dal continente latinoamericano sicuramente c'è un gran fermento, poi dopo stiamo parlando appunto di macro aree geografiche, bisognerebbe andare a guardare un po' tutti i paesi, però per dirti l'Asia sia da un punto di vista dell'estremo oriente e paesi anche un tempo meno attivi, non so, come le Filippine o l'Indonesia, stanno attraversando invece un periodo molto molto bello, molto prolifico dal punto di vista cinematografico e artistico in generale. E anche l'America Latina, l'Argentina ad esempio, si sta ponendo come una delle nazioni leader nel cinema, diciamo, ispanofono. E per dire il Perù anche, che ha vinto recentemente l'Orso d'Oro a Berlino. Diciamo un po' il fanalino di coda è l'Africa, che in questo periodo devo dire che sta un po' arrancando, l'Africa ha sempre fatto fatica a produrre i suoi film, non tanto l'Africa del Nord, perché l'Africa del Nord con paesi come l'Egitto, come il Marocco, ha una grande tradizione cinematografica. Diciamo l'Africa a sud del Sahara produce, ma sempre con una certa difficoltà, mentre una buona sicuramente stagione cinematografica la sta vivendo il Sudafrica, che con la democrazia ormai avviata da più di 10 anni ha cominciato a produrre anche film di qualità e non solo film commerciali come faceva un tempo. Bene, Alessandra, come è strutturato quest'anno il festival, se ci sono differenze rispetto alle passate edizioni? Insomma, guarda, abbiamo le nostre solite sezioni in competizione, sì. Quindi avremo modo di vedere i lungometraggi dei tre continenti in competizione, che è la grande competizione del festival, e poi anche i documentari dei tre continenti, e poi tre competizioni invece dedicate esclusivamente all'Africa. Le novità sono le sezioni parallele, quest'anno abbiamo due sezioni parallele veramente originali e interessanti. Una è, per la prima volta il festival si apre all'Asia centrale e abbiamo dedicato una retrospettiva ad un grande regista del Kazakistan che si chiama Darezan Ormibayev, che ha fatto 5 film, 5 piccoli capolavori, ognuno che ha ricevuto grossi premi in festival come Cannes o Venezia, e però poco visto in Italia, per cui è una novità. E l'altra invece è una sezione dedicata alla televisione Al Jazeera, sì. Che non come famigerata, ma di cui pochi conoscono in realtà il palinsesto, perché essendo in arabo, anche se magari ci capita di vederlo sul satellite, non possiamo capirlo. Invece Al Jazeera non è solo una televisione all news, è anche una televisione che produce programmi interessanti, e per cui ne abbiamo fatto una selezione e ve li portiamo tradotti in italiano. Senti, ospiti di cui siete particolarmente contenti? Guarda, abbiamo un grande regista palestinese che viene col suo film, si chiama Rashid Masharawi, è sicuramente regista di punta in questo momento in Palestina, viene e vive a Ramallah e ci porta un meraviglioso film che si intitola Il compleanno di Leila. Poi abbiamo nella giuria un importante scrittore senegalese che si chiama Boubacar Boris Diop. Avremo anche una rappresentanza italiana in giuria con Valeria Golino e con Maria Sole Tognazzi, per cui ce l'abbiamo anche le nostre diciamo personalità del cinema italiano che ci sostengono. E poi avremo il grande regista kazako Darezan Ormibayev che sarà con noi per tutta la settimana, per cui insomma un bel po' di ospiti, nonché poi tutti anche gli altri registi che presentano i film in competizione, quindi registi dall'Africa, anche Fernando Diaz dall'Argentina, una giovane regista, la sua opera prima indonesiana, che aspettiamo e l'abbiamo anche invitata alla nostra ora del tè, perché dall'anno scorso facciamo alle 5 con i nostri registi un'ora del tè, dove facciamo portare a ognuno un tè tipico del loro paese di origine e diciamo a metà strada la conferenza stampa e il salotto ci intratteniamo con loro. Bene, allora per chi ci ascolta diamo come riferimento il sito del festival. Sì, è www.festivalcinemaafricano.org, potete trovare tutte le informazioni e anche il programma. Un grande saluto Alessandra, spero a presto. Grazie a voi, a presto. Ciao. Ciao. E questa era Alessandra Speciale, co-direttrice del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, 19ª edizione a Milano dal 23 al 29 marzo. Andiamo avanti. Giovanni Spagnoletti, eccoci qui. Grazie. Come stai? Non c'è male. Allora, con te parliamo di un convegno che avrà luogo domani e riguarda i festival. E fare festival ai tempi del colera, se non sbaglio il titolo. Sì, un po' ironico. proprio perché siamo nei tempi del colera. Allora, qual è la situazione? La situazione è un po' difficile. Credo per tutti i festival, grandi e piccoli, che in questo momento ci sono nel nostro paese, per problemi di finanziamenti pubblici, ma anche forse perché la forma dei festival soffre del fatto che magari è un po' vecchiotta, risale ormai agli anni 30, alla Biennale di Venezia più di 60-70 anni fa. E magari questa formula, voglio dire, un po'. Credi un che po', vada ripensata? Insomma. Un po' usurata, bisognerebbe ripensarla. Insomma, ci proviamo. Ecco. L'occasione è semplice: c'è all'università, c'è Giorgio Cosetti che ha un corso di organizzazione degli eventi culturali all'Università di Bologna, insieme all'AFICE, che è l'Associazione dei Festival Italiani. Abbiamo deciso di fare questa iniziativa, che è un tentativo di ripensare un po' questo evento, l'idea dell'evento, e cercare di magari trovare delle formule comuni o con l'aiuto di tutti, insomma, ma fare in modo di pensare qualcosa di nuovo ai tempi del colera. Senti Giovanni, ci puoi anticipare qualcosa rispetto alle idee che ti sono venute in mente, per esempio rispetto a questa questione che ponevi dei festival, qualche idea di superamento di questo stallo? Beh, certo, il problema è un problema generale che insomma si inserisce in una situazione di crisi economica generale. Non solo dei festival, ma di tutto il comparto culturale. Sì. Quindi voglio dire, quello è un dato contingente. E poi c'è l'idea che magari non siamo più adeguati i tempi, soprattutto i festival di cinema, perché poi invece i festival più nuovi, tipo i festival di letteratura, delle scienze, magari vanno benissimo, hanno, ecco, un dinamismo in più, magari hanno un dinamismo in più, forse perché hanno qualche annetto di meno sulle spalle e forse perché hanno individuato un pubblico diverso da quello nostro, che è un pubblico di cinefili. Mm-hmm. Forse la cinefilia è un dato in calo, e tutto ciò si riverbera anche sulla, o forse il cinema ha perso un po' del suo glamour, o forse perché il cinema non è così bello come una volta. Tutto ciò comporta questi problema oggettivo che noi tutti cercheremo in comune di discutere, ecco. Vabbè. Credo che più che altro in questo momento non ci siano delle formule, quanto bisogna rimboccarsi le maniche, ecco. Sì. Senti, allora, tra l'altro l'ingresso è gratuito, ricordiamo allora, domani fare festival ai tempi del colera, questo è il titolo del convegno, ricorda gli orari e il luogo. E alla facoltà di lettere di Bologna, adesso l'indirizzo, che non sono bolognese, non me lo ricordo, dalle 10 fino alle 18 del pomeriggio. Va bene, allora io spero che poi tu ci riporterai in qualche modo i risultati di quanto. Okay. Certamente avremo modo di riparlarne in una prossima occasione. Va bene, allora un abbraccio, Giovanni. Grazie, a presto. Presto. Ciao. Di Cartoons, festival internazionale di cortometraggi di animazione a Roma dal 25 al 29 marzo. Ne parliamo con il direttore Alessandro D'Urso. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ben trovato. Grazie. Insomma, è sempre un bel appuntamento fisso. Sì, la vostra radio insomma ci segue e ci sostiene sempre. Allora, ci siamo allungati quest'anno. Eh sì, insomma c'è bisogno costantemente ogni anno di crescere, di fare cose nuove, quindi abbiamo con non poco sforzo aggiunto un giorno di più alla programmazione. Allora, diciamo un po', parliamo un po' di come è strutturato il festival, quante cose si vedranno, dalla provenienza anche. Allora, diciamo che insomma la struttura del festival rimane più o meno la stessa, nel senso che il festival è comunque a ingresso gratuito tutti i giorni. Tutti i giorni proporremo dei seminari di un'ora e mezza e quest'anno abbiamo deciso di dedicare tutti i seminari al software libero, quindi diciamo, un argomento di assoluto interesse e di assoluta attualità, quindi insomma chi verrà potrà capire, vedere, rendersi conto di che cos'è il software libero, in particolare chiaramente quello per realizzare animazione o cinema, Blender nel caso particolare, come realizzare una piccola animazione, e anche uno sguardo sugli altri tools, quindi su tutti gli altri programmi di software libero che riguardano più o meno la storia del cinema, quindi un argomento interessante di assoluta attualità. Sì, sì. Come al solito ci fonderemo con diverse arti quest'anno, mm-hmm. Infatti iniziamo mercoledì 25 con una lettura musicata di Giti, che leggerà le prime 20 pagine della Mia vita disegnata male, che è la sua graphic novel, insomma, di grandissimo successo, anche di gran qualità. Mi sa che ci siamo incontrati proprio in un'occasione simile. Esattamente, esattamente, proprio quella sera abbiamo deciso di riproporlo perché è veramente bello. Sì, sì, sì. Insomma, quella performance. Continueremo con un live di Food Sound System, che è una performance multisensoriale con Don Pasta ed Enzo Pietropaolo al contrabbasso, dove Don Pasta leggerà dei testi da lui scritti fra cucina e attualità, e dal vivo sul palco cucinerà anche, quindi insomma è vero multisensoriale, insomma, forse ci farà assaggiare anche le sue polpettine di melanzane, questo lo sappiamo nel tempo. Domenica 29 abbiamo un reading delle recensioni di Johnny Palomba, le sue recensioni sui film d'animazione, quindi è una cosa molto carina e divertente. Sì. Quest'anno il festival è dedicato in buona parte a una retrospettiva sulla Germania, quindi ampio spazio all'animazione che viene dalla Germania, con la Filmakademie Baden-Württemberg, che è forse una delle più importanti scuole in assoluto di animazione, con il Trick Film Festival di Stuttgart e con Kurzfilm, che insomma è una società, diciamo, è un consorzio che produce e distribuisce animazione in Germania. Collaborazione anche quest'anno con Marco Giusti per le 5 serate, che farà un Cartoons Vintage partendo da Tex Avery fino a Felix the Cat. Omaggio a tutti i giorni ai fratelli Fleischer, che l'anno scorso abbiamo dedicato al loro Betty Boop. Quest'anno ci occuperemo dei cartoni animati dal 27 al 41, una retrospettiva su Superman e un'altra su Braccio di Ferro. Lungometraggi, proponiamo quest'anno Idiots and Angels di Bill Plimpton, che è un film veramente straordinario, in 2D, disegnato benissimo, senza dialoghi, e Strings, che è un altro film incredibile fatto di marionette, quindi con fili visibili. Da qui, insomma, il live painting di Emanuele Cabu, che ha disegnato la nostra sigla, che sarà anche una retrospettiva dei suoi lavori e dei suoi corti. E mi sembra già un bel po' di Francesco Lò, che tratterà dell'invasione dell'animazione nei lungometraggi, diciamo, di fiction. Mm-hmm. Più o meno, diciamo, vi ho raccontato per quello che era possibile le fasi salienti del festival. Molto bene. Senti, e per chi volesse consultare il programma, abbiamo il sito vostro, no? Il programma, il sito è www.cortoons.it, c'è tutto il programma. Consiglio di prenotare i seminari per i 5 giorni, scrivendo una mail a prenotazioni@cortoons.it, ma è tutto segnato sul sito, insomma, questo giusto per avere il posto assicurato almeno ai seminari, che, ripeto, trattando di software libero, sono assolutamente interessanti e attuali. Molto bene, Alessandro, allora in bocca al lupo e ci risentiamo. Grazie a te, Federico, e agli ascoltatori. Un abbraccio, ciao. Ciao, ciao. In chiusura ce la dovremmo fare con un ultimo ospite, un attimo, Ora di una vecchia conoscenza, ossia il sito cinemainvisibile.it. Ne parliamo con Paolo Dallimonti per una votazione, Vota gli Invisibili del 2008, per sapere un po' cosa è uscito fuori prima ancora dei risultati finali. Però, aiutami. Insomma, c'è una rosa di candidati. Intanto buon pomeriggio, Paolo. Ci sei? Pronto? Pronto? Ecco, ci sei? Ti sento pochissimo. Strano, noi ti sentiamo bene qui. Aiuto, sento poco. E ti richiamo? Prova a richiamarmi. Ok, un attimo. Niente, non riusciamo a ricontattare Paolo, allora a questo punto ci salutiamo, diamo appuntamento alla settimana prossima, magari parleremo con lui fra 7 giorni, quindi il giovedì prossimo dalle 14 alle 15 con Visionare, il consueto appuntamento con il cinema. Per saperne di più potete consultare la scaletta sul sito della radio, ossia www.ondarossa.info, dove troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite del weekend cinematografico, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione, i link per dare un'occhiata alle nostre recensioni e poi le nostre indicazioni per quanto riguarda i film in programmazione sul piccolo schermo. Buon proseguimento e a giovedì prossimo.